importante notare come all'improvviso e contro ogni probabilità un capodoglio si fosse materializzato parecchie miglia al di sopra della superficie di un pianeta alieno. E non essendo questa una condizione naturalmente sostenibile per una balena, l'innocente creatura ebbe pochissimo tempo per accettare la propria identità. Ecco che cosa pensava mentre cadeva. Ah, oh, che succede? Chi sono? Perché sono qui? Qual è il mio scopo nella vita e soprattutto che significa chi sono? Ok, ok, calma, calma, riprendiamoci. Ah, che sensazione interessante. Che cos'è? È come un pizzicolino alla... Beh, sarà il caso di cominciare a dare nome alle cose. Chiamiamola coda? Sì, coda. Ehi, che cos'è questo fragore che mi sibila intorno a quella che chiamerò testa? Vento. Come nome? Funziona? Sì! Ho le vertigini da cose nuove. Sarà il vento? Ce n'è veramente un sacco adesso, E che cos'è che mi sta venendo incontro tanto in fretta? Così grande, piatta e tonda. Ci vuole un nome altisonante, anzi, altisuonante. Suono, suolo, perfetto, suolo! Chissà se diventeremo amici. Ciao, suolo! Fuoco alle polveri. Go how to Paul Berry. Radio Bomba. Buonasera e benvenuti all'undicesima puntata di Fuoco alle Polveri. Hey, hey. Subito a singhiozzo. Subito. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao Lore. Ciao Guidino. Ciao belli. Anche oggi qui puntuali, ciao Andre. Ciao Andre, no, sì. Anche oggi puntuali, per una volta puntuali. Sì, per un, quasi puntuali. Ah, no, il biologico però siamo indietro. Molto contenti, dovremmo essere anche in streaming. Allora, sì. In diretta. Allora, 11 come quel anni. Numero che viene dopo il 10 e prima del 12. A posto. Non ho trovato niente oggi. Come i nani, scusate. I nani, gli 11 nani. Gli 11 nani? No. No, non sono 11. La squadra di pallone. Va bene. Tante cose sono 11, però tutte anche... Tutte cose. Il numero, per l'appunto, hai detto te. Sì. Bene, bene, bene. Senti. Evviva. Che facciamo oggi? Nulla? No, facciamo un sacco di cose, un sacco di rubriche, come sempre, pieni di contenuto. Bene, anche ospite internazionale oggi, vero? Teoricamente sì. Ok. Bisogna vedere se riescono ad arrivare. Riescono a passare le frontiere, visto i tempi che passano. Esatto, eh? Esatto. Una edizione. Non è detto, non è detto. Non è detto. Iniziamo subito con una canzone, direi. Sì, sì, andiamo subito con un pezzo e poi dopo magari ragioniamo di qualcosa, inerente più... alla radio. E che radio è? È Radio Wombat. Thank you. come si fa e partorisce figli già con gli occhi chiusi. Lastrica le vite di metallo e plastica, ci mastica per disputarci fuori coi circuiti fusi. In uno stato di perenne incubazione, la grande madre controlla la popolazione, ci tiene sotto stretta ibernazione con una pistola puntata in testa in nome dell'evoluzione. Al sistema detta legge, ci dirige, ci protegge da noi stessi, alza muri spessi un metro e li sorregge, ci guida come pecore nel gregge, ci rende spettatori, prevede i nostri errori e li corregge. Il sistema industria, azienda, informazione, e vuole risultati senza la minima emozione, la perfezione da raggiungere a ogni prezzo. Il sistema è il fine ed è pronto a usare ogni mezzo. Il sistema sa, stabilisce ogni necessità, alza altari per la nascita di nuove civiltà, mosse da una volontà unica, un grande cuore freddo di titanio sotto una membrana umida. Il sistema dà piacere, lo tramuta in dipendenza, in cambio chiede solo l'assoluta obbedienza, blocca e demolisce ogni interferenza mentre alza torri in nome del progresso e della scienza. Gelido chirurgo, calcola ogni numero, terapia d'urto per il piano di recupero, in questa caccia all'uomo su scala globale, questo è l'ultimo passo, questo è l'atto finale. Tu sei Jimmy, giusto? È casa tua? Sì, proprio così. Sono il signor Wolf. Risolvo problemi. Ah, bene, ne abbiamo uno. Me l'hanno detto, posso accomodarmi? Ma sì, la prego, entri. Guido. Dica. Che canzone era? Allora, questa era un pezzo di Danno, di J. Crime, che ricordiamo essere l'autore della nostra sigla, sì, fotonica, e Stabio Boy. Per il progetto Cyberpunk Artificial Kid, numero 47. Perfetto, grazie. Prego, prego, figurati. Il titolo della canzone era? Il titolo della canzone era? Il sistema. Il sistema. Il sistema. Poco preparato. Oh, allora, te avevo detto di dirlo te? No, c'ho la voce sexy oggi. E non lo dice. Vabbè. Vabbè. Senti, visto che oggi siamo a parlare di radio alla fine anche. Sì, infatti oggi vogliamo ricordare, scusami. Vai, vai, no, no. Subito, di questo bando che c'è promosso da Radio Wombat per il logo, per il disegno del logo appunto della radio. Sì, assolutamente, perché ormai siamo partiti da diversi mesi, cominciamo ad avere un sacco... bisogno del logo. Esatto, abbiamo molte trasmissioni, abbiamo bisogno del logo per avere un... Logo. No, logo. Ah già, c'è anche questa disquisizione, però forse la lasciamo ai posteri. Ok, ai posteri la tua sentenza. Sì, ma te avevi un'idea di disegno, però c'è un problema. C'è un problema, che sono un cane a scrivere. Cioè, io non sono un cane come il cantante, cioè sono... Guido. Sì, sono Guido, okay. E non so disegnare assolutamente, non so, e non so creare poi il file da mandare. E qual era l'idea? Così magari qualcuno svelo, ci ascolta. Però... Però così qualcuno ci ascolta. Va lo bene. Immagina, lo disegna, ce lo manda. Allora io ho pensato questo. Ho pensato a una figura di uomo, ok, sì. Quindi corpo maschile con la testa da wombat, ok. Cioè sì. La testa da simil criceto, sì, da sì. Non so, più criceto, più roditore. Con nella destra una bandiera, sì, che sventola dietro, preferibilmente rossa. Sì. E nell'altro un cecchino. Ok. Le idee sono o all'interno di un cerchio, che questa figura di uomo con la testa da wombat cammina con la bandiera dietro, oppure da davanti seduto tipo su una cassa di TNT a gambe aperte. Perfetto. Ok. Non è male un'idea. Quindi a questo punto però sì. Non ho idea di come realizzarla, capito? Quindi, non è male, ma per fortuna non sai disegnare. Maledetto. Allora, se qualcuno invece condivide la bellezza di questa mia idea e vuole darmi una mano, Disegni e mandi. Sì, disegni e mandi o appunto ci contatti sulla pagina Wombat Firenze. Sì. Ricordiamo Facebook. Il termine della consegna di questo bando è il 22 febbraio, quindi spicciatevi. Se vi esatto, per il vincitore, cioè il logo sì. che sarà scelto, oltre ad essere appunto il logo ufficiale, che quindi apparirà tutto, avrà anche un premio, quindi proprio dei gadgettistica, proprio il primo modello. Sì. sì. Quindi insomma, ricchi premi. Ricchi premi. e sarà osannato probabilmente. Dalla folla. Dalla folla. Questo è sicuro. Sicuramente da me. Io inizierei subito con la prima rubrica, sì. che oggi ce ne sono tante. Mille, cioè tutte. Tutte, tutte. Direi. E la prima è quella di Nico. Sigla. Cos'è che ci buttaste per mamma con tanto amore? Dubbi e sicure. Che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro d'un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Ecco. Abbiamo fatto andare questa prima strofa perché nessuno che conosce questa sigla, anche se in tanti la conoscono, sa che c'è sotto il pezzo rap di Bellissimo. Questo magico Rudy Neri. Comunque mi sento poco, se mi si può alzare un pochino in non ti senti bene? In cuffia, ecco, no, scusate. Sei malato? Scusate. Ma ti senti mi bene? Mi sento poco bene. Quanta ironia, quanta hilarità. Insomma, parliamo di Sanremo oggi. Come perché domani comincia, non, domani oddio. C'è Sanremo. Non lo so che se culo. Lo sapete. E anche perché visto che si parla di radio, Sanremo nasce come trasmissione radiofonica. Ah. Magari non tutti lo sanno. Ah, io per esempio non lo sapevo. Sanremo, praticamente faccio un piccolo excursus storiografico. Mm-hmm. Nasce nel 51, nasce da un'idea di tale Angelo Nicola Amato, che c'entrava col casino di Sanremo, e un tale Angelo Nizza. Questi due si fanno venire in mente l'idea di creare un primo festival della canzone italiana. Dopo una serie di prove nel 49 e nel 50, nel 51 riescono a fare questo benedetto festival. Chiaramente, cioè, diciamo prima, il festival è stato sempre più o meno simile a quello che noi lo vediamo adesso, però per i primi 3 anni in realtà c'erano più o meno 4-5 cantanti in totale che poi cantavano tutte quante le canzoni. Ma questo ancora radio in radio o già allora, era? È andato in radio fino per i primi 4 anni, mi pare, fino al 54 infatti. Ok. E proprio per questi primi 3 anni aveva appunto questa struttura in cui erano sempre gli stessi cantanti che si giravano le canzoni diverse, diciamo. Poi mano a mano ha sempre avuto più richiamo e quindi ci sono sempre stati più cantanti a partecipare. La cosa strana è che fino al 71, questo non lo sappiamo, per ogni canzone c'erano 2 interpreti. Quindi la canzone veniva sentita 2 volte da 2 cantanti diversi. Ah, il che è molto bello perché è un festival della canzone, non è il festival dei cantanti. Certo. Quindi tu andavi a vinceva la canzone, che però era interpretata da 2 cantanti diversi. Sì. Ok. Cioè, già in questa rubrica, le puntate scorse, ogni tanto ho detto qualche canzone che aveva vinto Sanremo. C'era quella Uno per Tutti, Pazza di te. Sì. E quella era appunto di Gianni Dorelli e Tullio Pericoli. Per dire, perché andavano in due, la cantavano in due. Cioè, prima la cantava uno, poi la puntata dopo magari l'altro. La cantava l'altro. Niente, insomma, portiamo oggi porto oggi due dei momenti magici e storici della storia di Sanremo che l'hanno rivoluzionata un po'. Perché diciamo c'è sempre stata una lotta, perché la canzone italiana è una cosa bellissima, però del Festival di Sanremo sia sempre un'idea un po' contorta, un po'... come dire antitetica rispetto a quello che ci si aspetti. Perché appunto è stato creato da queste due persone che chiaramente per tirarlo su cosa hanno dovuto fare? Andare a chiamare, a bussare alle porte dei discografici e dire dateci i vostri cantanti. Quindi è diventata un po' una grande lobby che lo vediamo tuttora, cioè basta vedere solo adesso come è andata a finire negli ultimi anni che ha vinto Sanremo, i vari Mengoni o Usciti da Amici, sono le grandi punte delle proposte grandi, delle case discografiche. Tra i primi a cercare di intaccare questo questo, scusate, questo sistema dei divi, anche perché poi ai tempi era tutta musica, la musica che andava era la musica anni 50 di questi grandi divi incipriati che facevano le canzoni da lacrime nel fazzoletto. Ho trovato questa definizione bellissima. Io dopo quelle canzoni d'amore, la prima canzone che vince Sanremo è Grazie dei fior, tra tutti gli altri li ho riconosciuti. Ah, lo sì, io sì, questo Nilla Pizzi, Nillona. Allora sono io ignorante a sto giro. Insomma, a rompere per la prima volta e intaccare questa grande verità è stato Domenico Modugno con uno dei pezzi che ad oggi, per quanto dice la SIAE, è la canzone italiana più eseguita dal 58 ad oggi nel mondo. Okay. Nel mondo? Nel mondo. Sì. La canzone italiana più eseguita nel mondo dal 58 fino al 2017. Un bel primato. Ed è chiaramente... dai che è facile, dai che è facile. Nel blu. Bravo. Davvero? Certo, dai, certo. Dai. Certo. Bravo, bravo. Il cui vero nome è... No, qui lo volare, so. Ah, volare, volare, volare, giusto, o giusto. Cantare o... Bene, la canzone che porto oggi è sempre una canzone di Modugno che si ripresenta... Porca micidiali. È stata una canzone importantissima, davvero stravolto, perché sia a livello di musica sia a livello di testo non rispettava la classica canzone molto sinfonica, diciamo, sempre d'amore, però di quel certo tipo di amore che piaceva tanto negli anni 50. Era una canzone totalmente diversa, molto più sognante, molto più pop, se la vogliamo dire così. Solo il ritornello volare o cantare o... Insomma, l'anno dopo Modugnone ci ritorna, sempre in coppia con Gianni Dorelli. Anche Volare era fatta, anche Volare l'ha cantata anche Gianni Dorelli a Sanremo. Ma già ci avevi parlato una volta di Volare? Può darsi. Può essere, può essere. Fatto sta che comunque, no, quello era quando, perché c'era sempre bravo. Gianni Dorelli. Infatti mi ricordavo Gianni Dorelli. Insomma, nel 59, l'anno dopo, Modugnone ritorna a Sanremo e porta questo nuovo pezzo che si chiama Piove, condivide molte cose con il pezzo precedente, con Volare. Prima tra tutti un po' la struttura del pezzo, comincia lento e poi c'è questo ritornello molto animato, molto pop appunto. Ed è anche divertente perché sia l'una che l'altra si chiamano in un modo ma sono conosciute in un altro. Cioè Volare si chiama Volare ma la conosciamo tutti con Nel blu dipinto di blu, e questa qui si chiama Piove ma in realtà tutti la conoscono come Ciao ciao bambina, un bacio ancora. E adesso la sentiamo, ciao ciao, cioè, Piove del 59 ciao, ciao, di Modugno. Avanti. Mille violini suonati dal vento, i colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amore. Ciao, ciao. Ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba, l'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più, cos'è che trema? E pioggio pianto, dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove. ciao bambina, non ti voltare, non posso dirti rimani ancora, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata. Ecco, insomma, abbiamo sentito questo. Che delicatezza. Ora che la musica è finita, sì. Questa, quanta dolcezza oggi. Con questo pezzo qui è Ornellona, Ornella Vanoni. Tra l'altro è del Sanremo di cui stiamo andando a parlare, che è un Sanremo storico, è quello del 67. Ora io, visto che non sapete un cazzo, non nulla, faccio domande nulla, su cosa è successo nulla, nel Sanremo del 67, ma fondamentale, no, in realtà lo dico, non lo sapevo nemmeno io che era proprio. Ho studiato stamattina quell'edizione. Diciamo all'11. Insomma, questo ciao ciao bambina che abbiamo sentito, anche ciao recita il testo della canzone, della seconda canzone, che è Ciao amore ciao, di Tenco. Tenco che muore il giorno dopo, sì, che la sua canzone non viene ripescata, il giorno della finale di Sanremo, cioè il giorno prima della finale di Sanremo, diciamo. Diciamo che evidentemente questa innovazione, questo tentativo di scavalcare quelle lobby che aveva provato a incrinare almeno Modugno, non è riuscito così tanto, perché appunto nel quasi 10 anni dopo, all'Hotel Savoy viene rilasciata, cioè si trova questo bigliettino vicino al cadavere di Tenco con scritto: io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 10 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose di Orietta Bertino in finale, è una commissione che seleziona La Rivoluzione, che era il pezzo di Gianni Pettenati che era stato ripescato invece della sua, che comunque eliminata dalla prima mandata. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Insomma, così violento, mamma, è stato Tenco, voglia, alla fine. Ha detto proprio che la colpa era della musica italiana e del giro commerciale che c'è dietro e delle varie dinamiche sporche che la governano. Profeticamente tuttora, e la cosa è pazzesca perché tanti ci hanno provato. Cioè, tra i tanti che hanno usato Sanremo come palco per scardinare un po' quelle idee fisse che c'erano, quei dogmi che c'erano nel Festival di Sanremo, in generale nella musica e nella canzone italiana, tipo Celentano, che si presenta al Festival di Sanremo girato di spalle e se ne va girato di spalle, mentre prima i cantanti arretravano per non dare mai le spalle al pubblico. Okay. Modugno che fa questi pezzoni pop, eccetera. Insomma, Tenco fa l'ennesimo tentativo, l'estremo tentativo, possiamo dire. La cosa divertente, cioè divertente, la storia del pezzo è simpatica, perché il pezzo, che è Ciao amore ciao, appunto, era nato come un pezzo spiccatamente antimilitarista. Faceva riferimento appunto a lotte risorgimentali, fu cambiato totalmente, prima si chiamava Lì vidi tornare, poi si chiamò appunto Ciao amore ciao, il ritornello era lo stesso ma il testo delle strofe era diverso, e come noi la sentiamo adesso hanno lasciato praticamente una sorta di canzone d'amore che è sullo sfondo dell'emigrazione italiana però in America. Poi la sentirete appunto. Insomma, festival presentato da Mike Bongiorno, tra l'altro un festival in cui Tenco si presenta con Dalida, che al tempo era la sua sposa, insomma la sua ragazza. Vince Claudio Villa con un pezzo che si chiama Non pensare a me, e ce n'erano tanti, tanti pezzoni in questo Sanremo. Cuore matto, Le pietre di Antoine, quella, ti tirano le pietre. Bellissima. Io, tu e le rose, appunto. La musica è finita di Ornella Vanoni, che è quella che stiamo sentendo, che se non conoscete sentitevi, è proprio una bellissima canzone. L'immensità di Don Bachi, che la sentimmo, sì, se vi ricordate, un po' di tempo fa. Certo. Ma certo, ma certo. Il 67, quindi. Insomma, Tenco che cosa fa? Sale sul palco sbronzo, di grappa probabilmente, anche impasticcato, perché era già abbastanza girato di cazzo. Dice a Mike Buongiorno da subito: io questa cosa non la volevo fare e non la farò più. Poi non si capisce se era cantare in generale oppure comunque vive, si girava la voce che volesse lasciare la carriera da cantante e darsi solo a quella di compositore. Insomma, che cosa fa? Visto che la canzone la cantava sia lui che Dalida, a lui non piaceva come la faceva Dalida, perché diventava una canzone, sembrava una marcetta, sembrava troppo felice. Allora lui chiede al direttore d'orchestra, che aveva un nome simpaticissimo, mi ricordo, Giampiero Riverberi si chiama, per un direttore d'orchestra ci sta. Niente male. Gli chiese di rallentare la strofa. Il direttore gli disse di no, lui vaffanculo, entrò mezzo mozzo e rallentò con la voce il pezzo. Quindi il direttore d'orchestra stava lì in panico, cercando di far andare più lenta l'orchestra, sempre al suo ritmo. L'unica versione che abbiamo registrata è appunto questa, e ve la facciamo sentire adesso, perché tra l'altro non si trovano più nemmeno i video di questa cosa, perché andarono bruciati nell'archivio Rai, che ha preso fuoco tipo negli anni 80. Gran parte è stata la canzone, l'hanno ripresa dall'archivio della radio. E insomma, nulla, sentitela, è bello per come la fa lui, perché davvero, a costo di andare fuori tempo, cerca di farla molto più sentimentale, molto più lenta, e senti l'orchestra proprio che arranca e gli arranca dietro. Poi tra l'altro è una canzone bellissima, quindi ciao amore, ciao, di Tenco. Dai, La solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore. C'è come il fumo in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi di tornare da te. Non avere un E insomma, ecco, questo era il pezzone che abbiamo sentito, anche con qualche piccolo problema, insomma, tecnico. Era divertente la storia di Tenco, divertente fino a un certo punto, divertente, si diceva, mentre poco andava la canzone si parlava tra di noi sul fatto che molti hanno detto che è stato ucciso, non è stato ucciso, si è ucciso. La cosa assurda è che la prima persona che l'ha trovato in camera, oltre da Lida, che appunto era la sposa ai tempi, è stato il grande Lucio Dalla, che era molto amico, ed è stato quello a ritrovare il cadavere. Dice che lui è entrato per sbaglio nella camera, l'ha visto per terra con Dalida che diceva di andare a prendere qualcosa, di chiamare l'ambulanza. Lui non si era accorto che fosse davvero schiattatissimo, insomma. Scende sotto, cerca aiuti, quando risale vede com'era veramente la situazione. Si è parlato, su, sì, l'hanno ucciso, non l'hanno ucciso, si è ucciso. Fatto sta che tutti i suoi amici hanno detto: guarda, chiaramente si è ucciso. Anche perché chi avrebbe e perché avrebbe dovuto uccidere quel grande di Luigi Tenco. Insomma, niente, lasciamo questa cosa, finisce con questa riflessione su che cos'è Sanremo, su come è andata Sanremo, su come sta andando, e vediamo un attimo domani. Come dire, tanti hanno provato a invertire la rotta di Sanremo e ci troviamo domani che lo presenta, come cazzo si chiama quella cosa? Maria De Filippi e Carlo Conti, come al solito. Tiziano Ferro farà molto probabilmente come ospite speciale un omaggio a Luigi Tenco. E questo è il panico intorno a Tiziano Ferro, perché hanno paura tutti che dica di voler comprare lo usare in affitto, figlioli, cose strane, e quindi c'è Adinolfi, è tutto allarmato. Ah, così, tutto fremente. Adinolf, sì, vedi, lui. Vedi, Sanremo a cosa serve. Sì, e sì, insomma, sì. Insomma, così bisognerà vedere chi vince, chi vincerà, come andrà, ma sempre la solita storia. Insomma, viva Radio Wombat, grazie, viva la Nico, musica, anche viva oggi. Radio Wombat e viva cazzo Fuoco alle Polveri. Un bacione, ci vediamo la prossima lunedì volta, prossimo, la prossima settimana. Ci sarai? Ci sarò molto probabilmente. Ciao, sì, Niclavo. Sì. Grazie. Sigla. Dubbi e sicure. Ok. Molto bene. Molto bene. Io ho avuto un annebbiamento a un certo punto momentaneo, non sentivo più niente, un po' è il bello della diretta, esatto, è il suo bello e il suo brutto, è il suo bello e il suo brutto. Noi dicevamo prima dei nostri ospiti internazionali, praticamente. Sì, allora oggi faremo un qualcosa di molto interessante. Cioè faremo tipo scrivere Google su Google, sì, scrivere Wikipedia su Wikipedia, sì, scrivere cavallo su cavallo, sì, no scusa, ok. E quindi abbiamo due ospiti speciali, che sono i due un po' padri costituenti. No, non sono i padri costituenti. Che brutto. Padre e madre costituenti di Radio Wombat. Quindi benvenuti a Gino e Maria. Certo. Io sono la madre. Te sei la madre? Io sì. E io l'usere in affitto. Come Tiziano Ferro. Che meraviglia, io sono veramente felicissimo. Anch'io sono felicissimo. Ricordiamo Gino e Maria che sono i conduttori di ben due trasmissioni a testa, se non mi sbaglio. Siamo un po' esagerati. Se avete preso gusto, Maria conduce Slick Chick, che va in onda quando? Il mercoledì dalle ore 9. E sì, la fuga del gatto invece. Sì, la fuga del gatto la domenica, quando non sono troppo devastata, alle 4:30 più o meno. Mentre Gina invece conduce 3000 siepi, che andrebbe in onda teoricamente la domenica, però mi dimentico quasi sempre. Poi adesso quella che lo faceva con me mi ha paccato, sono rimasto da solo. Anzi, faccio un appello: c'è qualcuno appassionato di sport e mi vuole aiutare? Io sono rimasto solo, sono triste. Ieri non sono neanche, ragazzi, riuscito a mettere in onda la trasmissione perché c'era brutto tempo e l'avevo registrata prima, allora l'ho messa stamattina. Però ecco, sto ridotto così. Peccato, perché 3000 siepi è, fra l'altro, la trasmissione più seguita della radio, forse. Bellissima, è bellissima, senz'altro, però sono rimasto da solo. Allora, questo è un appello ufficiale, per favore. Se non volete che faccia la fine di Tenco. Oh, mamma! Però per tirarti sul morale, invece, sì, hai intrapreso anche una nuova rubrica. Coccoli al silicio. Sì, anche quella ho deciso che era una volta alla settimana, poi è subito diventata estemporanea. e ho fatto solo la prima puntata. Poi però non l'ho messa in non ho messo il podcast per un sacco di tempo per creare l'attesa. Certo. No, giusto. È perché mi sono dimenticato, poi mi hanno fatto una... ma è andata meglio perché poi sono andato a vedere, in realtà stavo facendo girare in radio, questa la registro, poi la mando a girare in radio, ma ho sbagliato a tagliare il file, avevo messo solo i primi 8 minuti. Poi in realtà la trasmissione dura 50 e quindi poi ho messo anche gli altri 50, ho messo il podcast e ora la potete sentire e giuro che sto facendo anche la seconda puntata. Allora, mi raccomando, ascoltate anche Coccoli sì, al silicio. Tutto, perché a quanto pare è stato faticoso metterla, quindi ecco, assolutamente. Sì, e poi ha un approccio tendenzialmente esoterico alle tecnologie. Parlo di storia del pensiero scientifico, dal positivismo in avanti, ora siamo al positivismo. Giustamente. Fichissimo! Ho iniziato adesso. E poi c'è anche la rubrica sulla la magia nera informatica. Ah. Che è una cosa che tendenzialmente non capisco neanche io bene cosa dico, però... Però ci... E cioè, beh sì, perché uno viene introdotto nell'atmosfera, non è che proprio devi capire tutto, devi cogliere l'atmosfera, devi... così, okay. Basta. Uno state of mind. Ok, allora andiamo a parlare proprio invece della nascita di Radio Wombat, di... Quindi vi poniamo un po' delle domande, poi in realtà è una cosa che abbiamo fatto tutti insieme. Quindi, infatti, noi non è che siamo gli esperti, lo siete anche voi. Sì, facciamo no, sicuramente finta, più facciamo esperti. Un po' il gioco delle parti, dai. Esatto. Sì. Allora, la domanda appunto è da quali esigenze è nata la radio? Cioè, perché si è voluto, è nata questa idea di creare una radio a Firenze che parlasse di tematiche... specifiche o no, oppure no, anche perché noi siamo evidentemente, per esempio, l'esempio che non stiamo parlando praticamente di niente a parte di quello che ci va. No, e sì, quali sono state appunto le esigenze che ci hanno portato a pensare prima di realizzare una radio, diciamo, libera. Ma, allora vado io che sono più che sei l'utero, che sono l'utero in affitto, quindi sul pre lo so bene. No, allora la cosa è andata in maniera, cioè, strana, perché era un po' di tempo, io mi verrebbe da dire un po' di anni, che comunque tra amici, compagni vari, eccetera, si sentiva un po' la mancanza della radio, perché guardavamo con molta invidia le altre radio che esistono, libere, che esistono in altre città, penso a Radio Onda Rossa a Roma, Radio Blackout a Torino, eccetera, e altre che ne esistono, insomma. E le ascoltavamo e tutte le volte ci dicevamo: ma cazzo, quanto sarebbe bello avere la stessa cosa anche a Firenze, poter parlare di quello che succede in questa città senza le gabbie che inevitabilmente ti dà una radio commerciale o una radio di tipo associazionisti come può essere Nuova Radio, sì, o Contro Radio, che di fatto, certo, sono un po' le uniche radio, diciamo, non prettamente commerciali che esistono a Firenze, che però sono quantomeno insufficienti, ecco, poi ognuno la pensa un po' come vuole, però secondo me ci troviamo tutti d'accordo nel dire che non bastano, ecco, no, assolutamente, per usare un eufemismo. E quindi siamo partiti dall'invidia e abbiamo detto, boh, cazzo, sarebbe proprio bello. E lo spunto è un po' nato perché in realtà le altre radio di cui parlavo prima sono radio in FM, che comunque nascono negli anni... fine 70 per quanto riguarda Onda Rossa, e quest'anno tra l'altro compie 40 anni, quindi insomma nel 77, è una storia molto lunga. E Blackout lo stesso, che è nata un po' dopo, ma pochi anni dopo, giusto? No, parecchi in realtà, parecchi. Sa che è nata nei primi anni 90. Ah, così? Io pensavo 80, ancora metà anni 80. No, invece... no, 90, nasce intorno alla Pantera. Ok, comunque insomma, che nascono in ogni caso in un'epoca in cui si parlava di radio comunitarie, cioè si poteva parlare di radio comunitarie in FM, insomma, e avere uno spazio sull'FM, sulle onde FM non era strano, non era impossibile. Ora nel 2017 obiettivamente è impossibile, perché poi magari ne parleremo dopo se vogliamo, sì, raccontare meglio un po' tutte le questioni AM versus, sì, FM, eccetera. Però diciamo che di fatto sì, siamo partiti dall'invidia delle radio amiche e affini in FM, ma sapevamo che comunque in FM noi non ci potevamo andare. quindi, e di fatto la radio soltanto in streaming non ci bastava tanto. Allora c'eravamo un po' bloccati, nel senso era un po' un sogno buttato lì che però non aveva sbocchi. A un certo punto io vi dico come la vivo io, sì, poi sì. In realtà non è sì, che sì. Cioè, secondo me è stata un po' una convergenza di intenti, però come me la sono vissuta io è stato che c'è stato questo, ci hanno dato questa dritta che avevano fatto questo bando per l'assegnazione di frequenze in AM, appunto poi ne parleremo un po' meglio, e che quindi si apriva un po' una possibilità forse di poter andare in AM e quindi di aprire una nostra radio fiorentina in AM. Da lì c'è stato un attimo di fibrillazione, ho detto oh figata la radio, allora forse lo possiamo fare, però ci siamo anche detti sì vabbè però non si è mai fatto, quindi buttarsi subito su una roba che è tecnicamente difficile e che noi non abbiamo mai fatto, rischiamo un po'. Così iniziamo a rodarsi intanto con la radio via web e quindi è nata questa idea, abbiamo in realtà è nata più che altro, almeno ripeto dal mio punto di vista, tra alcune persone del giro del Next Emerson che hanno lanciato questa sorta di giornata pubblica, assemblea un po' tra tutte le realtà per provare a parlare di questa cosa. Sono venute con nostra anche sorpresa, perché non ci aspettavamo, sono venute diverse persone, tra cui voi e tanti altri di tante altre realtà fiorentine, che ci hanno fatto capire che insomma questa nostra invidia nei confronti delle altre città era condivisa e che un po' tutti avevano questa voglia di provarci. E quindi niente, abbiamo dato fondo alle nostre capacità tecniche e non... E abbiamo iniziato a provarci e da qui è nata Wombat Radio. Evviva, siamo qui ora a parlarne, appunto. Anche perché ormai sono diversi mesi che andiamo avanti con il nostro progetto e ci affiniamo, no? È vero, ma sai che non saprei dire il compleanno. Cioè, se noi un giorno vogliamo fare il compleanno, quando si fa? Anch'io non lo so. Era, secondo me, il 16 ottobre. È vero, decidiamo ottobre. Il 16, ci piace. 16? Forse sto dicendo cazzate, però secondo me era il 16 ottobre. Allora, prossimo 16 ottobre festeggiamo. Sì, assolutamente, facciamo una festa gigante. Arbitrariamente o... decidere il giorno in cui sarà deciso finalmente il logo della radio, potrebbe essere... Decidiamo anche il compleanno. A me piaceva il 16 ottobre però, dai. Dai, 16 ottobre. Sì, l'importante sia il 15 ottobre perché invece è una ricorrenza un po' più... corteo, sfighe, arresti, insomma. Sì. Che 16, il giorno dopo, vabbè. Sì, dai. Non è male, assolutamente. Abbiamo trovato anche il compleanno. Evviva. Vedi com'è utile ripercorrere queste cose. Io devo dire, appunto, anche dal nostro punto di vista, quando è arrivato l'appello, no? L'appello, l'idea, e l'appello a partecipare a questa radio, l'entusiasmo, sì, esatto, abbiamo detto sì, subito, assolutamente, grandi. E anche perché, insomma, ci sono delle competenze tecniche di base che magari non sono impossibili, però, nel senso... io sto imparando ad usarle, sì. Però lì per lì non sapevo sinceramente né io né nessuno qui di noi come iniziare, quindi in questo forse l'apporto del Next Emerson è stato importante, no? Per dare il via. Dite. Sì. Oh, beh. E poi anche la voglia di riuscire col tempo a diventare davvero la voce dei movimenti, del, no? Un po'... L'idea sì, era alla fine quella di dare uno strumento di elaborazione che non fosse uno strumento legato a quel tipo di comunicazione a cui ci siamo abituati negli ultimi anni, cioè che è molto legato all'instant messaging, a Facebook, a leggere soli titoli. Uno viene bombardato di informazioni ma non elabora nulla e sostanzialmente contribuisce soltanto a un caos informativo che però poi non ci aiuta a capire veramente la realtà, no? Cioè la radio invece, con il fatto che tu ti metti davanti a un microfono, parli, in qualche modo nel parlare stai elaborando anche il tuo pensiero, no? E ti aiuta a svilupparlo. Verissimo. Se poi si crea all'interno di una comunità che viene da posti diversi, in qualche modo diventa un modo di confrontarsi e comunque di introdurre delle tematiche, non so, anche non è un dibattito, però è comunque un modo per creare un humus culturale che secondo noi era qualcosa che c'era, ma non è semplice da coltivare, no? La radio, sì, secondo noi, dovrebbe aiutare a fare questo. E quindi il progetto, quando è partito con la radio via web, in realtà è partito anche per riuscire a partire in fretta, perché magari il setup invece delle onde medie sarebbe stato più complicato. Si poteva fare il contrario, cioè partire con le onde medie, poi ne parliamo dopo, e poi con la radio via web, ma la radio via web c'ha una caratteristica, secondo me, tecnica, che è più interessante, che è la resilienza, cioè il fatto che te, quando ti metti una stazione in onde medie, per la particolare situazione legislativa che c'è adesso, diciamo che ci sta che ci riesci e vada liscia, però ci sta pure che te la chiudano. E il web invece ha questa caratteristica del fatto di essere più, ecco, io dico resiliente, cioè nel senso che lo rimetti su in 5 minuti e quindi è anche inutile, certo, che mi chiudi. Giusto. E anche a costo basso, insomma. E poi si è a basso costo, nel senso che effettivamente non, cioè fare questa cosa non c'è speso nulla se non l'investimento poi delle persone che lo fanno. Certo, tempo e competenze. Sì, esatto. E voglia, tanta voglia. Sì. No, e poi la cosa strana, cioè la cosa che mi ha stupito a me un sacco, è che quando ci siamo trovati, non so se vi ricordate, la prima volta che ci siamo trovati a tavolino a parlare, ok, quindi cosa facciamo nel dettaglio, abbiamo iniziato a proporre un po' di trasmissioni, di cose, e la cosa che non mi aspettavo, essendo una radio di fatto di movimento, è che quasi tutti, no, secondo me tutti, abbiamo proposto più o meno trasmissioni musicali o che comunque avessero un fortissimo contenuto musicale, cosa che secondo me non è banale, nel senso che in altre situazioni io mi sarei aspettata di più, che ne so, la trasmissione sul carcere, la trasmissione, certo, su quelle due o tre cose canoniche che devi dire, perché sennò non sei veramente del movimento. E invece l'ho trovata una cosa interessante, perché appunto di fatto chi parla di musica in una certa maniera non è che non parla di politica assolutamente, no, certo, ma ne parla da un'angolatura anche appunto più, sì, culturale, e per certi versi anche probabilmente meno diretta, ma anche più interessante forse a volte. E quindi è stato buffo, cioè io mi sono rimasta stupita di questo fatto, e evidentemente era anche un po' la cosa di cui tutti sentivamo la mancanza, se poi il primo contenuto che abbiamo pensato di mettere in ballo era quello. Assolutamente. E perché non siamo persone noiose. Alla fine è per quello, sì, penso anche. Sì, poi la musica è comunque un fattore aggregativo, oltre che di riflessione e di trasporto di contenuti, quindi anche quello aiuta a aggregarsi. Sì, sì, tra l'altro l'ho sentita questa cosa, forse a Slick Chic, parlavi della musica, del movimento e gli europei come vivono il movimento, molto più fermi, e quindi anche rispecchiava l'individualismo, se non sbaglio, però era tipo la seconda puntata, cioè, quindi sono passati mesi. Ho detto. Può darsi, sì, sicuramente. Allora, quindi direi, tra l'altro, vai, che visto siamo su questa cosa, potremmo mandare una canzone nel mezzo a questa nostra chiacchierata, sì, e poi riprendiamo. Assolutamente, please. Yeah. do. Throw it in the garbage can, but just say my name. Non stai pensando quadrimensionalmente. Rieccoci. E parliamo, direi, di questa, di queste AM, cioè di queste on the di media. Questo argomento, sì, che diciamo che si può prendere diversi punti di vista, nel senso sia da un punto di vista tecnico, che è interessante perché poi ne sappiamo poco, e, ma anche da un punto, soprattutto da un punto di vista politico, poi come riappropriazione di un, alla fine di uno spazio che esiste, che si può, in cui si può entrare, e che vediamo se c'è la possibilità di fare, insomma. La cosa è nata in realtà da una cosa che è successa, nel senso che prima la RAI aveva sostanzialmente una concessione per l'utilizzo delle onde medie, che sarebbero quella cosa che uno sull'autoradio non va mai, cioè nel senso che ormai tutti stanno solo in FM, sì. Negli ultimi 20 anni le onde medie sono andate in disuso, però c'è ancora nella radio, se lo guardate, AM, sì. Quelle sono le onde medie, è un altro modo di trasmettere, sono altre frequenze rispetto all'FM, che però è diventata, diciamo, per la facilità, diciamo, trasmissiva, è diventata la cosa principale. Le onde medie erano quelle per andare lontanissimo, quindi per coprire tutto il territorio nazionale. Le FM erano pensate invece per coprire la città. Poi hanno scoperto le radio commerciali che potevano fare i network, e quindi hanno iniziato, giusto, a utilizzare la stessa cosa con potenze enormi. Cioè solo noi in Italia facciamo sto gran casino, in realtà negli altri paesi stanno più, tutti trasmettono a meno, noi invece in FM pompiamo un sacco, perché quello è diventato, diciamo, il mezzo per il broadcasting, per la trasmissione, e per le, diciamo, per la radio. Poi adesso si parla del passaggio alla radio digitale, noi saremo lenti a farlo, si parla da qui a 15-20 anni. Speriamo, okay, anche che siamo lenti. Sì, forse sì, o forse è meglio se siamo veloci, così almeno l'abbandonano proprio tutto e noi possiamo... ci infiliamo subito. Noi ci infiliamo, non lo so, tra le due. Nelle onde medie appunto è andata così, nel senso che è scaduta la concessione con la RAI, posto che alla RAI non gliene frega più niente di questa, certo, tecnologia trasmissiva, eccetera, praticamente si è aperto una specie di buco legislativo, perché prima la concessione con la RAI implicava che nessuno trasmetteva. E quindi non è che c'è una legge che governa chi trasmette e chi dopo. No, ci sono le cose generali. In generale, per tu per trasmettere in etere in qualche modo devi comunicare al ministero, al MISE, che stai trasmettendo. Fine. Ok. E quindi questo apre sostanzialmente una situazione abbastanza simile a quella che era l'Italia degli anni 70, cioè delle radio libere prima della legge Mammì, che andava a legiferare su quel contesto e determinato poi lo sviluppo della radio a venire. Quindi tutto quello che vediamo adesso è nato con la legge Mammì. Prima era che chiunque poteva comprarsi la radio e trasmetteva, e infatti venivano fuori un sacco di cose belle. Poi c'è stata la legge Mammì e tutto è iniziato a essere meno bello. Sulle onde medie siamo di nuovo in quella situazione lì. Però c'è un però, che in realtà trasmettere in onde medie tecnicamente è molto più un casino, perché le antenne, siccome l'antenna è proporzionata alla dimensione dell'onda, sì, le onde medie sono grosse, perché vanno lontano, e quindi anche l'antenna è tanto grande, infatti, okay, la RAI c'aveva i tralicci, queste cose qua. Quindi te non è che per forza devi fare sta roba qui, però comunque significa tirare dei cavi anche lunghi, magari da palazzo a palazzo, è più una roba da radioamatore. Diciamo, scusa, che un'altra differenza importante è che siccome appunto serviva alla RAI e le onde medie vanno molto più lontano, facilmente con un'antenna appunto molto grossa, tralicio e tutto, però tu copri tutta l'Italia. Quindi veniva usata essenzialmente da soggetti, vedi la RAI, che avevano interesse a coprire tutta la RAI, tutta l'Italia. E se tu volevi coprire invece solo una città, andavi in FM, perché ti bastavano le onde FM. Invece l'idea di usare le onde medie per coprire una porzione di territorio più piccola non, di fatto finora non serviva, o comunque non era stata esplorata. Non è pensato per questo, certo. Però esiste, diciamo, siccome questa cosa qua l'hanno fatta in tutta Europa, diciamo ci sono degli altri paesi che hanno affrontato prima questo problema, ad esempio in Olanda hanno fatto una legge che diciamo destina grazie questo spazio di frequenze proprio alle radio comunitarie e quindi tendenzialmente sarebbe una roba, infatti cioè, tutto nasce da questa roba qui, che c'erano una serie di emittenti italiane più legate al giro dei radioamatori o appassionati di radio, che hanno iniziato a trasmettere in onde medie, e poi uno di loro di Padova, c'è anche un sito ondemedie.it dove potete vedere chi trasmette in onde medie in Italia, si è autodenunciato dicendo sostanzialmente all'Unione Europea: io in Italia sono un pirata, però in realtà è solo perché non abbiamo una legislazione relativa. E quindi l'Unione Europea ha detto: sì, c'hai ragione, tu puoi trasmettere. Infatti lui, perché l'hanno fatto chiudere, lui si è arrabbiato, ha fatto dei ricorsi al TAR, il TAR ha dato ragione, l'Unione Europea ha detto: sì, è vero, è la legislazione italiana che è sbagliata, voi dovete in qualche modo assegnare anche queste frequenze se non le usate più. Quindi c'è un precedente precedente legislativo. Ci sia un precedente legislativo, c'è anche il bando, nel senso che l'Italia è andata in fretta e furia con il passato governo, cioè insomma con il governo Renzi ancora, che ci aveva un po' però altre cose da fare, e hanno tirato fuori sto bando in cui dovevano assegnare queste frequenze. In realtà il bando era una cosa che tu lo guardavi e dicevi: vabbè, ho capito, ma non c'entra un cazzo con chi ve l'ha chiesto, perché era una roba che ti assegnavano tra ricci, che poi abbiamo scoperto tipo che quello che assegnavano a Firenze l'hanno tirato giù. Ah, perfetto. Quindi ti assegnavano un sito trasmissivo dove però sei mesi prima avevano abbattuto il traliccio perché dava fastidio all'aeroporto. Beh, però lo puoi ricostruire, capito? Quindi tu ti trovavi questa frequenza, poi ti facevano riferimento a delle potenze trasmissive che sono quelle delle onde medie che usavano loro. Ah, quindi con le antenne erano giganti. Esatto, quindi ti dicevano: però non puoi trasmettere a più di 50 kW. E tu dicevi: oh, ma io se arrivo a trasmettere a 100 watt già sono tantissimo per me, no? Certo. E poi ti dicevano: no, non puoi trasmettere la notte perché sennò disturbi tutte. Cioè sì, a 50 kW la notte ci sta che fai il delirio, ma a 100 watt non si accorge nessuno, cioè se ne accorgono giusto i miei amici a Tor. E quindi tendenzialmente sto bando era sostanzialmente inutile. Noi adesso ci siamo un po' disinteressati, perché quando avevamo deciso di non farlo, perché non sapevamo come approcciarlo, non sappiamo se qualcuno si è assegnato qualche frequenza attraverso questo bando. Ok. Comunque semplicemente diciamo che la cosa che va per la maggiore sarebbe quella di riuscire a costruire, cioè tra quegli altri che l'hanno fatto, e tu ti trovi un trasmettitore a bassa potenza, che attualmente ne trovi, perché alcuni radioamatori si sono messi a costruirli e quindi riesci anche a comperarli anche se non sei in grado di autocostruirti. Ah, ok. Poi metti su tutta la cosa per trasmettere e poi trasmetti. Fine. Okay. Cioè, così. Cioè, secondo noi non c'è nient'altro però da fare. Okay. Cioè, stiamo a posto così. Okay. Quindi, quando riusciremo a fare questa cosa, che sarà i nostri prossimi esperimenti su questa roba qui, sostanzialmente Radio Wombat diventerà una radio via web rimbalzata in etere attraverso le onde medie in AM. Quindi poi macchina, se ci inventiamo degli altri mezzi trasmissivi, li aggiungiamo. Certo. Per quello siamo partiti dal web, perché così noi si ripiglia ogni volta il web, che è facile tenerlo su. E poi possiamo inventarci tutti i modi che vogliamo per andare in giro per il mondo. Assolutamente. Molto chiaro. Quindi in quel momento in macchina potremo ascoltarci. Yeah. Sì, posto che non la nostra, diciamo, la nostra potenza trasmissiva non ci permetterà probabilmente di essere ascoltati ovunque. Ma certo. Vabbè, l'area fiorentina, dai. L'area fiorentina. Ce la facciamo. Noi puntiamo a, dopo un po' di prove, ad arrivare a tutta l'area fiorentina. Che sarebbe grandioso. No, incredibile. Sì. Ma sarà grandioso. No, tra l'altro cioè, adesso la M le potete, cioè, se vi incuriosisce la cosa, perché in effetti un altro modo per spiegare che cos'è la M è quella cosa che quando per caso schiacciate quel pulsante lì che non sapete cos'è, sentite dei rumori strani e lo ripigiate subito dicendo: oddio, aiuto, cosa ho aiuto, fatto? Aiuto. Oh, mamma. Esatto. Sì, ho rotto la radio. Perché sì, non trovi più le stazioni, dici: oddio, ma che è la M. Perché effettivamente non ci trasmette nessuno, quindi gran parte è il rumore bianco, però funziona che di giorno si sente quasi dovunque, almeno a Firenze, soltanto la RAI e soltanto, mi sembra, Radio 2 o Radio 1, non mi ricordo. La notte invece, siccome le onde AM vanno più lontano, la notte per l'abbassamento della ionosfera e tutte queste simpatiche cose, quella cosa che diciamo sempre: ah, la ionosfera, la ionosfera. Però effettivamente è vero, perché se voi di notte si intende quando cala il sole, quindi anche dalle 5 alle 6, dipende dalla stagione, sentite, cioè d'improvviso sentite tutta un'altra serie di stazioni che fino a 2 ore prima non sentivate, e sentite la qualunque, stazioni arabe, un sacco anche dalla Spagna, dalla Romania, insomma vi potete divertire a sentire varie stazioni. E quindi potete verificare con mano che cos'è, come si sente anche, esatto, la M. Provate. Stasera. Già ora forse, non so. Chissà. No, tra l'altro le apparecchiature con cioè no, purtroppo non essendoci un, cioè essendo una tecnologia abbastanza abbandonata in Italia negli ultimi anni, le ultime radio che trovate magari non ce l'hanno la M, non è detto. E quindi ci sarà anche un po', no, da... Io sapevo però che i costruttori di macchine, visto che tipo Olanda, Francia, le AM le usano molto, continuano a costruire le macchine con entrambe, sì, infatti l'autoradio le frequenze. È più problematico magari sulle radioline, quelle da tenere in casa. Ok, scusa. Avevo però preso. Sì, le autoradio credo, perlomeno, cioè io quelle che ho avuto io ce l'avano sempre. Addirittura io ho le onde corte. Bellissimo. Perché in giro in realtà per l'Europa, cioè le onde medie sono ancora viste comunque come il mezzo per arrivare lontano. E quindi ci sono diciamo alcune trasmittenti, di solito sono quelle nazionali grosse, che trasmettono ancora in onde medie, appunto perché la notte sia possibile ascoltarle da tutta Europa. Perché magari te vai a lavorare in un altro paese e ti va di ascoltare una radio del tuo paese d'origine, e così molte radio intelligenti, secondo me, lavorano sulle onde medie. Io penso in Italia abbiamo soltanto la RAI che trasmette così. Mi sembra ci fosse anche Monte Carlo, una certa. Ma io non sono mai riuscita a sentirla. Noi abbiamo trovato soltanto la RAI, questo, uno, sì. E poi un sacco di emittenti minuscole che sono queste di ondemediaitalia.it, che però cambiano completamente il paradigma trasmissivo. Se si trasmette a bassissima potenza rispetto a quell'altre, per sostanzialmente sfruttare il fatto che c'hai della banda libera e della gente che ha l'autoradio in macchina e ti può ascoltare. Ma peraltro, non so, confermatevi, ma se non sbaglio ci sono molti più canali sulle M rispetto alle FM, cioè perché va dalle frequenze, come era Riordo? Si va fino a 1600, partendo più o meno 600. Realisticamente da 800. Da 800, ok. Sì, anche un po' più basso, non mi ricordo bene qual è il broadcasting europeo. Comunque da 800 a 1600 sicuro. FM è 80-105. Sì, ma poi lo spazio tra uno e l'altro non c'è in FM, invece lì c'hai... c'hai 9 kHz tra una e l'altra, e ce ne stanno un sacco in questo spazio. Quindi si accavallano anche meno, forse? Teoricamente bisognerebbe è fatto perché per riuscire a non saltarsi sopra vicenda. Però tanto questo problema in realtà non c'è nel nuovo mezzo, diciamo, nel nuovo... cioè come lo vorremmo utilizzare noi, perché è improbabile che avendo un range così ampio nella stessa città riesci proprio a metterti su frequenze vicine, capito? Perché tanto non si parla di coprire tutta Europa, di andare in allora dobbiamo guardare quelli che trasmettono dalla Spagna, quelli che trasmettono... Delirio. Cioè noi vogliamo trasmettere a Firenze, siamo anche da soli attualmente, quindi non c'è problema. E se c'è un altro lo chiamiamo, mettiamoci d'accordo. Esatto, e quindi diciamo il progetto per l'avvenire è questo. Per ora c'è comunque la radio via web che si sta assestando tecnicamente anche in un palinsesto decente. Degno, ora forse siamo arrivati anche al quid, per dirvi lo stato tecnico, se qualcuno può interessare. Forse abbiamo pronte la cosa comoda per fare le repliche, quindi quando ascoltate di giorno forse non ci sarà più l'annoiosissimo bobinone che poi ci dimentichiamo di cambiare, ma ci saranno le repliche delle trasmissioni. Che sono 14, quindi con 14 repliche potrete sentire delle cose nuove quasi tutti i giorni. Bellissimo, tra l'altro fatto con un algoritmo scritto da te? Certamente. No, hai provato a spiegarmi l'altra sera, io più o meno ho capito. Ma... Rumore bianco come nella M. No, ma la cosa dell'algoritmo è nata perché mi pigliano tutti in giro. No, in realtà è che qualcuno chiedeva l'algoritmo, che forse è il nostro regista, che ha detto algoritmo, no? Cioè era che si doveva mettere d'accordo, però non si voleva non litigare. Non riuscivo a spiegarmi, ho usato una parola a caso. Eppure era giusta. E per non litigare, ho detto facciamo una regola, così tu hai la trasmissione. Allora viene ritrasmesso 2 giorni dopo al mattino e 3 giorni dopo la sera. Siccome però quando arrivi alla domenica devi cambiare settimana. Giusto. Allora io ho tirato fuori la matematica, ho detto allora facciamo n, che sarebbe giorno in cui trasmetti, sì, più 2 modulo 7, che sarebbe che quando arrivi a 7 giorni riparti. Okay. Esatto, e questo è il modulo della settimana. Ecco. E poi n più 3 modulo 7 per la notte, è venuto fuori un algoritmo. Capito? Sì. E abbiamo detto anche delle cose, sì, di matematica in radio. Cioè io l'avevo fatto con i disegni. Questo di solito fa spegnere all'istante tutti. No? Io ho fatto dei disegnini perché non ero in grado assolutamente di concepire una cosa del genere. Quindi a breve ci saranno le repliche, o già sono partite? Diagramma. Allora, alcune sì, in via sperimentale. Okay. E oggi vi spiego a voi, dopo che abbiamo finito qua, come fare le repliche. Quindi voi sarete la prossima che Viva. Parte. E poi pian pianino tutte le altre si metteranno al passo. E dovremmo per la settimana a venire avere il palinsesto con le repliche. Quindi quello stabile e definitivo. No, ma perché infatti, cioè, io volevo fare un appello, giusto che ci siamo qua e cogliamo l'occasione, che è bello, cioè la radio funziona se la gente ci ascolta in diretta, nel senso, o comunque, certo, se ci ascolta così, anche casualmente, perché uno sta a cucinare, non sa che fare, accende la radio. I podcast sono, sì, belli, ma è un altro tipo di mezzo, vero, anche, sì. E quindi quello che interessa a noi è anche l'ascolto di tipo casuale, cioè io ascolto e vediamo cosa trovo. Quindi le repliche ci potrebbero aiutare anche a convincere il nostro pubblico folto di usare la radio in questa maniera, certo, e non soltanto scaricare i podcast. Sì, poi sono sicuro quando e se riusciremo a passare in AM sarà tutta un'altra storia, perché a quel punto... L'idea è quella, infatti, sperando che sì, che di riuscirci, e che la gente si procuri un sacco di bellissime radio con la M, ecco, vintage. Wombat, direi. Per forza, ci praticamente, ci mancava, sì. Allora, vuoi aggiungere qualcosa, allora? Beh sì, diciamo, Radio Wombat, in realtà, appunto, proclamerà il vincitore del bando per il logo, farà delle serate, insomma ci muoviamo per fare qualcosa anche non soltanto dietro al microfono e alle cuffie, ma anche vis-à-vis. Conoscere i nostri fan. Esatto. Avremo tutte le maschere però, chiaramente. Sì, certo. E quindi niente, quali sono i prossimi appuntamenti o progetti o cose? Oddio, chissà, io non me la ricordo. Se no, allora sapete, abbiamo in progetto, no, di fare una serata proprio. Io mi ricordo delle date. Ma caso, ti tiro a indovinare. Io, il 3 febbraio. Aspetta, c'è un'agendina rossa che sta uscendo da una tasca. Rosa, più che rossa. Forse è meglio l'agendina, no, rossa, rossa della mia rossa? Memoria. Allora, è il libretto rosso. È il libretto rosso. Il libretto rosso di Guido. C'è tutti i miei nemici qui. Oddio. ora lo trovo, comunque. Io mi ricordo che era a marzo. Comunque, allora, la scadenza del bando è il 22 febbraio. Quello, e questo, sì, è un dato di fatto. Sì, quindi c'è scritto anche proclamazione vincitore 12 27 marzo. Febbraio. Eccolo. Il 12 marzo. Io avrei già detto 13, meno male che sono stato 12 marzo. È proclamazione. Domenica 12 marzo, sì. Ah, proclameremo. È vero. Proclamazione, no, sì, e premiazione. E premiazione. Durante il mercato in polveriera. Quindi esatto, vi invitiamo ancora a mandarci i vostri progetti, perché nel senso poi tutti avranno la vostra immagine sulle magliette, sulle mille magliette. Quando vi ricapita una cosa del genere? Mai. E rinnovo l'appello a chi volesse sviluppare la mia idea, che ho lanciato prima, che sto, certo, cercando. Certo. Rinnoviamo ancora una che volta. Voi mi avete schifato, peraltro. No, io vabbè, no, anzi, no, l'ho ritirata fuori. Sì, la, okay, testa di Wombat sul corpo di uomo ancora non mi convince fino in fondo. Però forse mi sbaglio. Certo, non... ti sbagli. Ok. No, non abbiamo altre date, ma comunque ve le faremo sapere qui o sulle altre trasmissioni che vi invitiamo ad ascoltare sempre e comunque. Esatto. E poi il sito è sempre aggiornato, ricordiamo wombat.noblogs.org, che se ci sta ascoltando... Giallo sta, è già lì sopra. Magari ci ascolterà l'app. Infatti tra un po' metteremo anche scaricabile l'app, la nuova sciccosissima app per Android. Solo per Android, per ora. Dai, magari riusciamo... Infatti io parlo facile, non ho idea di come si faccia. Ma figurati, io ho il cellulare scemo, quindi. Va bene. Ci salutiamo? Salutiamoci. Senza più base sotto, tutto molto. Oddio, che brutto. Che paura. Ah, è finita la canzone. Ma questa è la vera radio. Quando, certo, la fai così nel silenzio, vero, capito? Silenzio che devi colmare i silenzi. È vero. Noi vi ringraziamo assolutamente. Fuoco alle polveri, sì, vi ringrazia. Grazie ma a voi. Ma in realtà ci ringraziamo da soli. Esatto, capito, cioè molto autoreferenziale. Tutto un sacco di complimenti a noi stessi. Piacerissimo. Che bello. È molto bello. Possiamo fare dell'autocoscienza. Sì. Eh? Complimenti per la trasmissione, queste cose qua. Anche a voi. E via, via, che bei momenti di radio, vera? Diamoci una pacca sulla spalla e andiamo oltre. Andiamo oltre. Grazie ragazzi, ci sentiamo presto. Direi. A voi. Ciao ciao. Ciao. All you ladies, gather round. The good sweet candy man's in town. Candy man, candy man. He's got the candy that's 9 inches long. He sells it fast to hope and chew his cone. Candy man, candy man. All hood was just a don't say it. He always takes a candy stick to bed. Candy man, candy man. So the ladies say Candyman, Candyman. Yes, don't stand close to the Candyman. He's a sick candy in your hand. Candyman, sweet Candyman. Yes, you and the Candyman, you're getting mighty sick. Mm-hmm. Man, you're getting mighty sick. Mm-hmm. Mm-hmm. You must be stuck on the candy man stick. Oh yeah. Oh yeah. Puntata oggi super super super la migliore forse carico di aspettative tutti così ecco bravo è Wombat al quadrato oggi. È Wombat al quadrato è Wombat Wombat esatto Firenze Firenze senti facciamo un po' una carrellata su quello che succede sì appunto cioè parlavamo di essere la radio che bla, bla, racconta bla. Insomma poi sono solo chiacchiere distintivo esatto. Raccontiamo un po' cosa cosa succede questa settimana qui a Firenze? Sì. Che poi è parziale, comunque noi cerchiamo sempre di essere sul pezzo, no? Ma certo, non ci preoccupiamo troppo, direi. Ok. Senti, domani, giusto? Oggi sì. È il 6, ragazzi, scusatemi. Oggi è il 6. Oggi è il 6, grazie. Sì. E domani, in cioè, Polveriera, ci sarà dalle 15 in poi un'assemblea sul Kurdistan, organizzata dal collettivo Ska Galileo. Del liceo Galileo, quindi. Sì. E invitiamo tutti a partecipare perché quando si parla di Kurdistan è un momento in cui siamo tutti interessati a orecchie impennate, direi, sull'argomento. Sì, perché è comunque poi un argomento che ci tocca, no? Sì. Cioè sì. È un conflitto che poi sta toccando un po' tutti. Ci saranno anche dei relatori kurdi. Cioè, ci saranno dei relatori kurdi E il tutto inizia alle 15. Dalle 15, sì. Quindi presto. Presto, ma... Andate, veloci, noi ci andiamo, quindi... Sì, sì, assolutamente. Bene. Sabato sera. Sabato sera, sempre in polveriera. Ebbene sì. C'è una cosa strana, no? Strana ma particolare, interessante. Molto particolare, sì. Che... Allora, si chiama... Dai, coraggio, Primitivo allora. Presente, organizzata da UR. E sarà una serata che partirà dalle 17 con esposizione di un pittore di un pittore che si chiama Michele Mannucchi, sì. Dal 19:30 un aperitivo con una selezione musicale sempre da questo collettivo UR. E dalle 21 sarà un concerto di batteria elettrificata, è un esperimento, è un cioè, progetto sì. di sì. Più, direi più un progetto perché già è stato eseguito, di, no? Sì, di Lampreda, anche questo è il nome del progetto. Del progetto, sì. E che appunto verrà suonata una batteria live sotto il video, sotto un video, diciamo, quindi direttamente da una proiezione. Ci sarà poi musica live sotto ad sì. animare questa. E comunque è una batteria, quindi percussioni, sì. qui anche il primitivismo, no? Sì, esatto. Che esce fuori. Non lo sappiamo spiegare bene. No, lo diciamo perché venite, cioè andate. Sì, perché per capirlo meglio anche noi dovremmo fare così. Detto questo, Machine Funk mercoledì pomeriggio sempre in polveriera. Dalle 16 in poi fino alle 22 macchinette e musica. Esatto, apericiper. Apericiper, forse. Quindi, si dice così? Sì, penso di sì. E perché costa poco, cheaper. Esatto, costa poco. Costare costa poco, effettivamente. Quasi nulla. Devo evitare, forse. E niente, poi gli altri ve li diciamo... Più avanti, più sì, avanti. Anche nel mezzo... Da voci diverse. Di voci diverse, non sempre noi, se no vi annoiamo. Andiamo avanti con le nostre rubriche. Oh cavolo. Sì. Oh cavolo. Le nostre rubriche e... prima forse mandiamo un pezzo. Ci sto con la testa, sai che sono il folle. E a te te rode perché sai che io sto sopra il colle. Vado giù duro, stai sicuro che divento nero. Se un piedi piatti becco mio fratello e dice faccia contro il muro. Io non c'ho il ferro ma so cosa fare. Prima ero la preda, ora il cacciatore. Giorno dopo giorno, una rima dopo l'altra. Ma non basta, c'è sempre qualche cosa che non va nella mia testa. Resto lo stesso in piedi perché sento che dentro al cuore mio brucia il fomento. Dal buio profondo salgo in superficie. Sono l'elfo scuro tra la gente, perciò non mi do pace. Qualcuno confonde la mia storia con quella di altri. Se non ti piace quel che dico, non ascoltarmi però. Il dubbio resta sempre nella testa mia. E adesso scappo via dalla nuova fattoria. Perché non fa per me, troppe ombre tutte uguali. E in giro troppi cani da guardia, troppi maiali. Io vado giù ma poi ritorno sempre su. Tu cercavi il cane ma ora il cane non c'è più. Ora il cielo sopra me sta diventando più vero, più duro. E odio pieno giù dall'elfo scuro. Bello, ne ho viste di stronzate nella mia vita, ma questa. E ora legge tasso. Fottiamci, anima mia, fottiamci presto, poiché tutti per fotter nati siamo. E se tu il cazzo adori, io la potta amo, e saria il mondo un cazzo senza questo. E se post mortem fotter fusse onesto, direi: tanto fottiam che ci moriamo, per fotter poi di là Eva ed Adamo, che trovarono il morirsi disonesto. Veramente gli è ver che si furfanti non mangiavan quel pomo traditore, lo so che si sfogliavano gli amanti. Ma lasciamo ir le ciance insino al core, ficcami il cazzo e fa chivi, si schianti l'anima che in sul cazzo or nasce or more. E se è possibile, fore, non mi tener della potta i coglioni, d'ogni piacer fottuto testimoni. Ol metterete voi di tel, di grazia, dietro o dinanzi? Io lo vorrei sapere. Perché? Farotti io forse dispiacere se nel culme lo caccio per disgrazia? Madonna no, perché la potta sazia il cazzo, sicché va poco piacere. Ma quel ch'io faccio, il fo per non parere un frate mariano, verbi grazia. Ma poi che il cazzo in cul tutto volete, come vogliono i grandi, io son contento che voi fate del mio ciò che volete. E pigliatel con mano, mettetel dentro, che tanto utile al corpo il troverete. Quanto c'ha gli ammalati l'argomento, ed io tal gaudio sento a sentir mio cazzo in mano a voi, ch'io morirò se ci fottiam fra noi. Sonetti lussuriosi, Pietro Aretino. A letto, tasso. Vai. Ciao carissimi. Mi lancio da me, vai via. Allora, viva, sono qua come sempre, pizzo, faccio il pezzo. Sono il pizzo, faccio il pezzo. E nulla, già che si parlava di Lucio Dalla prima, poraccio, non sapevo che fosse stato il primo a assistere a quella storia là, insomma. E già che siamo a parlare di siamo in argomento erotico, diciamo, rimaniamo su questo. Esatto, lanciamo un disperato erotico stop. Dietro di me il coro dei fischietti, preso proprio ora, ecco, insomma. Riconoscerete forse qualche fischietto. Via, boh. Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno vista spogliata la mattina, birrichina, birricò. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, era un botte, Dio che botte. Ti hanno vista alzare la sottana fino al pelo, che nero. Poi m'hai detto, poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica. Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre a casa, esco poco, penso solo e sto in mutande. Penso a delusioni, a grandi imprese, a una thailandese. Ma l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale. Quindi normalmente sono uscito dopo una settimana. parte il vestito, i capelli, la pelliccia e lo stivale. Aveva dei problemi anche seri e non ragionava male. Non so se hai presente una puttana ottimista e di sinistra. Non abbiamo fatto niente e sono rimasto solo, solo come un deficiente. Ho incontrato uno che sarà per tutto. Gli ho detto che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino. Guarda con la faccia un po' stravolta e mi dice: sono di Berlino. Non ci son stato con Bonetti, era triste e molto grande. Ma ora mi son rotto, torno a casa e mi rimetterò in mutande. Prima di salire le scale mi son fermato a guardare una stella. Sono molto preoccupato, il silenzio mi ingrossava la cappella. Ho fatto le mie scale tre alla volta, mi son steso sul divano. Ho chiuso un po' con gli occhi e con dolcezza è partita la mia mano. Dabbare! Dibbare! Dabbare! Grazie coro dei fischietti. Il coro dei fischietti è bellissimo. Grazie, grazie. Ciao. Bravi ragazzi, bravissimi. Aspetta, una domanda per il pizzo. Abbiamo una domanda per il pizzo. Domanda per il... Vieni, vieni, vieni. Fammi una domanda, Samir. Sono ancora qui, poi stacchi il coraggio. No, dicevo, io c'ho una domanda che vedo il pezzo che ogni volta che esibisci proprio nella radio, so che interpretare degli artisti è un po' già difficile, però la vedo che... che ce l'ha proprio nell'anima, come si dice. I bagagli. I bagagli. Grazie. E sarà vivi proprio. Grazie, Sami. Tanti bacini. Sì, sì, sì. Guarda, però, va bene lo stesso. Grazie. Ti voglio bene a Sami. Ciao, Harry. Ciao, Grippo, grazie. Prego. Grazie a voi. E direi che, vista l'ora... L'ora? Che è... sia prossima a quella della merenda cena. È già all'8? No, però la merenda cena. La merenda è il cibarsi tra le 6 e le 8. Sì, sì, sì, sì. Che bello. Come la cola cena, anche quella. Tipo cola cena. C'è la cate, ragazzi. Impastando si impara. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao Kate. Buonasera ragazzi. Tutto a posto? Sì. Tutto a posto. A postissimo. bene, bene. E dopo sonetti lussuriosi, argomenti un po' X, oggi di che cosa parliamo? Boh? Boh? Se lo dici tu. Mi faccio un indovinello. Si Vai. Possono fare fritte, bollite, affrittata, crocchette, sbattute al muro. Patate. Bravi, era facile. Beh. Era molto facile. Niente. Banane? Banane fritte. Sì, sì, ci stanno, no? Esistono le banane sì, fritte. Sì, ma poi fritte è buono tutto. Aspettate che io ho un problema con le cuffie. Ti sammosce il microfono, cosa è successo? Della tua testa, praticamente. Il microfono che crolla. Un disastro. Un disastro. Però, come sempre, mi c'ho fame. Allora, niente, oggi vi do questa ricetta che ho fatto ieri sera. Sì. Della serie, quando uno deve cercare cose per non studiare, fa qualsiasi cosa. Certo. Tipo si mette a pulire, fare, dire, poi dici, ma perché non vado a cena a casa di un'amica e faccio qualcosa da mangiare? E niente, poi gli parte la diatriba. Cosa c'hai, cosa non c'hai, frigorifero, apri, ma patate ne hai? Sì, ne hai. Allora, perfetto, facciamo questa cosa. Patate ripiene. Buonissime, ragazzi, c'è la svolta, sono la svolta veramente, perché sono versatilissime, si possono fare vegetariane, con la carne, senza carne, con quello che noi abbiamo in frigo, eccetera, eccetera. E questo è un buon pretesto della serie, quelle proprio ricette svuota frigo, che uno apre, vede quello che ha, ad intuito, mette insieme quattro cose. E noi ieri sera che cosa avevamo? Le patate, cavolo nero, bietoline, del gas, buonissime, aglio, cipolla, due uova, poi avevamo un pezzo forte che era lo speck, che quello per noi studenti fuori sede non è tanto scontato averlo in frigo, e formaggio e mollica. Okay. Cosa dobbiamo fare per fare queste patate imbottite, ammuttonate, come si dice da me in Sicilia, eccetera, eccetera? Allora, prendiamo le patate, questa è la preparazione base per fare la patata. Per divertirci. Diciamo. Sì. Allora, bisogna lavarle benissimo, stricarle bene bene con la mappina, come si fa con tutto quanto, e bisogna forarle con una forchettina e le mettiamo a bollire, ok? Ok. Pizzico di sale, e io ultimamente ho scogitato sta cosa, ci metto uno spicchio d'aglio intero dentro l'acqua. Nell'acqua. Di bollitura, sì, così da un profumino aglioso per chi piace, ok? Okay. Poi bisogna, si scendono, come si dice, si scendono le patate quando sono pronte, si okay. scolano, scolano sì. Si fanno raffreddare un pochettino, e si mettono orizzontalmente. Prendiamo la patata, la mettiamo sì. nel lato orizzontale più lungo, mm-hmm. E infatti prima chiedevo, cioè io come la devo spiegare questa cosa? Spiegala così a sentimento, sì. E in pratica si taglia una fettina sopra, ok? Quindi noi vediamo come è fatta la patata. Se c'è un bozzettino, la parte più piatta la mettiamo giù, il bozzettino sopra lo tagliamo. Quindi tagliamo tipo un quinto di patata, ok? Sei arrivato, Samir. Samir è il mio disturbatore ciao, ufficiale. Che della tua rubrica, della tra mia l'altro. Rubrica, siccome io già sono molto attento. No, io sono il contrario. Mi piace quello che dici, quello che fai. Certo. Anzi, ma poi Samir è il mio executive chef. Anzi, vuoi sposarmi? Mi daresti una stellina? Una stellina? Così la metto su. Allora, Samir, amone. Prendiamo questa patata, la tagliamo e poi con un cucchiaio ben bene scaviamo l'interno della patata, okay. Okay? Per creare l'incavo dove poi andrà, diciamo, il nostro ripieno. La gioia. Ok, ora Arianna ieri sera mi ha fatto una critica, dovevi scavarla un pochettino di più perché così c'era troppo stack, c'era troppa patata secondo lei. Quindi ok, quindi scavare fare. Molto. Scavare assai. Molto, stando attenti perché la patata la comunque tende a spezzarsi, ok? Quindi con la manina la teniamo raccolta e scaviamo bene bene. Allora, poi per la farcia che ho fatto, ho preso l'aglio e la cipolla. E se si sbruciola? Se si sbruciola, ci butti un po' d'olio sopra e smangi tutto e ciao. Che infatti poi dopo vabbè, questa cosa devi dirmi come la devo maneggiare perché Samir, hai istinto, vedi tu come ti viene meglio e lo fai. Comunque dopo questa operazione rimane un sacco di patata bollita che possiamo mettere benissimo di lato per fare altre cose dopo che vi suggerirò. Cioè quello che scavi via dici certo, tenerlo certo, chiaramente che non si butta via mai nulla. Non si butta mai niente. Brava Ati, così in cucina non si butta mai niente. Niente. E niente. Dopodiché che facciamo? Aglio, cipolla, tritate belle sottili, soffrittino, cavolo nero tagliato piccolissimo. Lo mettiamo ovviamente prima delle bietoline, facciamo cucinare, sì. Sale, pepe, semplice semplice. E ovviamente le verdure devono essere bene asciutte, diciamo. Se cacciano un sacco d'acqua, se comunque hanno un sacco d'acqua. Niente coperchio, quindi. Niente coperchio, esatto. Io l'ho cotte. Bravo. Così, senza coperchio. Bravo. L'ho fatto asciugare. Cavolo nero, quindi, bietoline, aglio, cipollina semplice semplice. Poi specca a pezzetti, sì. Noi ieri avevamo ricotta affumicata, però onestamente io ci avrei messo un altro formaggio, okay. Tipo io metterei una fontina. Sì, qualcosa di più deciso. Sì, esatto. Però affumicata comunque sempre. Cioè, affumicata è deciso. Sì, eh? Sì. È deciso fontina. Non ti è piaciuto più di tanto e quindi consiglio. Sì. Sperimentate comunque, provateli tutti e via. Fontina tutte insieme, facciamo il mappazzone, quindi mischiamo lo speck e il formaggio insieme alle verdurine saltate in padella e riempiamo piano piano queste patate che nel frattempo abbiamo adagiato su una teglia. Ieri per, vabbè, sketch così c'era... il foglio di carta forno già con olio e sale grosso, quindi abbiamo riutilizzato quello proprio per fare schifo. Però sta cosa alla fine è piaciuta, perché ogni tanto beccavi il pezzettino di sale grosso nella patata sotto, che comunque la patata è con la buccia, ragazzi. Ok. Ma la buccia io gliel'ho tolta e poi me ne sono pentita perché è diventata buonissima. Certo. Però siccome non ci croccante. Sono più croccante. Sì, sì. Quindi che facciamo? Prendiamo il ripieno, lo mettiamo dentro le uova e a parte sbattiamo con un pizzichino di sale due uova intere. E che facciamo? Prendiamo un cucchiaio e glielo due cucchiari per ogni patata, glielo versiamo dentro l'uovo così. Ok. Okay. Pizzichino di sale. Allora, l'uovo intero, cioè... Sì, sbattuto. Sbattuto, sì, quindi sì. Tuorlo e chiara, tutto albume, insieme. Sì, riempiamo la patata, glielo mettiamo dentro. E niente, poi sopra potete mettere quello che volete. Io per esempio ho messo un po' di erba cipollina, sì. E pangrattato, la mollica come la chiamo, sì. Pangrattato. Olio sopra, bello, forno. Io sparerei il forno a 200 gradi, bello alto. Okay. Cioè, poi si vede quando è che sono cotte le patate, fanno la crosticina fuori, eccetera, eccetera. 20 minuti massimo. Ma io farei 20 minuti statico e gli ultimi 10 minuti sparerei proprio il ventilato per fare la crosticina sopra. E il grill? Per farlo... Il grill, sì, sì, sì, lo stesso. Ma non metti il pane grattato sopra? Sì, io l'ho messo infatti. Ah, no, tu sei scusa, distratto, io non ci posso fare niente. Allora, poi niente, ho fatto qualche ricerchina, qualche variante per il ripieno. Io ho usato pure un pochettino comunque di patata bollita, io l'ho messa anche, però poca. Dentro? Sì. Certo, no. Un'altra variante di ripieno, appunto, ho trovato la polpa della patata avanzata e il gorgonzola. Buono. Fine, cioè, buonissimo. Sai cosa puoi fare anche? Puoi riempire anche le cipolle. Sì. Che se levi e ci metti l'uovo dentro con questo mix che stai dicendo tu, per esempio. Se uno non ha le patate. Di usare la cipolla. È un po' più grave come situazione, però... È buona, però. È buona uguale, sì. Non so, non l'ho mai provate, le proveremo però. Tutte le... Tutto ben accetto. Oppure anche col macinato, certo. Il grana, il parmigiano. Niente ragazzi, aprite tutto il frigo, quello che c'è, glielo mettete dentro. Tutto a basso apporto, basso apporto calorico. E poi con la polpa, con la patata avanzata, io e la Miriam abbiamo fatto un gatto, come sì? Lo chiamano, perché c'era avanzato sia condimento che patata bollita. Quindi abbiamo fatto in una teglietta questo gatto. Un gatto. Noi lo chiamiamo gatto. il gatto, se lo volete, la ricetta lampo. Patata schiacciata, tuorlo e mezzo, sbattete a neve gli albumi nel frattempo, patata, tuorlo, un pochettino di latte. Bello, poi incorporate gli albumi, mettete nella teglia, al centro il condimento, sopra di nuovo patata e poi pan grattato, parmigiano a gogo e vola tutto. Beh, e poi a letto. E niente, quindi oggi ricetta veloce, rapida, svuota frigo. Evviva, evviva. Ma senti, buonissima. Ma dov'è che possiamo anche invece trovare, ecco, un po' di, ecco, materiali? Allora fatemi prendere una... Approfittiamone, importantissimo, per ricordare il nostro appuntamento mensile con il mercato del contadino dell'artigiano. Che si tiene dove? Che si tiene nel chiostro di Santa Pollonia, in via Santa Reparata 12R. Perfetto. La polveriera in questa occasione terrà diversi concertini, eccetera, eccetera. Allora, il mercato comincia alle 10 del mattino, come sempre. Alle 16 ci sarà Disco Balera, vinil set. Poi alle 18.30 c'è scritto aperitivo a prezzi popolari, ma secondo me è un orario un pochettino utopico, perché non ce l'ha, non credo sarà pronto per quell'ora. Quindi diciamo di non sì. Illudiamo le persone ogni volta. Quindi vabbè, aperitivo verso le 7:30 così. E nel frattempo, scusatemi che mi è volato tutto quanto. Allora, ore 20:30, concerto live Monkey Ranch. Ranch, già, vero. Sì. Vero. E nel corso della giornata, comunque, gli spazi della polveriera ospiteranno ancora l'esposizione che dicevate prima, sì, di Michele Vannucchi. Sì. Quindi giornata piena, diciamo. Venite a trovarci, comprate le verdurine per fare le patate ripiene e niente, via. Ragazzi, per ci oggi sentiamo per oggi, sì, ci sentiamo la settimana, sì, prossima. Che grazie fame. A te. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao. Impastando si impara. Olè, ci mancava. Sì. Comunque, Wombat, Firenze, Padere. Esattamente, è tutto per due. Oggi è tutto per due. Al quadrato. Anche il logo. Perché il nostro... Sei venuto a sbugiardarmi. No, non io, attenzione. Ma bensì il nostro amico Marco. Ah, l'infame Sì. Che niente, ci ha linkato la pagina della Treccani, in cui il logo si legge logo, perché la prima O ha un accento che le rende aperta. E quindi logo. Ma, dubbi logo. Se vuoi continuare a chiudere tutte le tue cose, no, ma continua a farlo. La questione è che io più forte di me, io. Cioè non è che lo faccio apposta. Lo so, amico, capito? Hai parenti sardi? Ho parenti sardi, sì. Allora per quello forse. Però non di sangue. Vabbè, ho capito. Però di cuore sì, mi sento un po' sardo, sinceramente. E quindi puoi continuare a dire logo se vuoi. Aia. No. E direi di andare avanti. Abbiamo la nostra Anita. Sì. Che salutiamo. Ciao Anita. Ciao Anita. Ciao ragazzi. Com'è? Bene, bene. Ottimo. Che facciamo? Che ci racconti? Nulla, oggi volevo leggervi alcuni pezzi di un famoso scritto di Antonio Gramsci, datato 11 febbraio 1917, dedicato agli indifferenti. E volevo ricordare prima Federico Aldrovandi, dopo la recente sentenza della Corte dei Conti, che ha riconosciuto l'indulto amministrativo ai poliziotti, definiti addirittura come vittime del dovere. Vabbè, assurdo, è inutile commentare. Certo. E ora appunto vi reggo questi pezzi. Allora, odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abolia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia, opera passivamente, ma opera. È la fatalità. È ciò su cui non si può contare, è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti. È la materia bruta che strozza l'intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare. Lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva. E la massa ignora perché non se ne preoccupa. E allora sempre sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, Sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittime tutti. Chi ha voluto e chi non ha voluto. Chi sapeva e chi non sapeva. Chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente. Ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Odio gli indifferenti anche per questo, perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi. In essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Grazie. Cioè, molto rilassante. Io mi permetterei... Rilassante. Da sto mondo avevo voglia di cambiarlo. Durante quell'estate, mentre molti erano in ghiaccio, rimase in prima linea un misto di incoscienza e di coraggio. E dimmi tu che fine ha fatto Federico. Da solo quella notte, senza nessun amico, ha incontrato quattro stronzi. Con la legge sul vestito hanno spezzato i manganelli per mostrargli che cos'è proibito. Dimmi dove sta Vittorio, che ci ha insegnato che restare umani adesso vale più dell'oro. A migliorare il mondo che è uno solo e non c'è razza. Il male viene da qualunque uomo. Dimmi dove è andato Giovanni, dove sta la vita spesa per un obiettivo e contro una mentalità che ha strozzato una regione, una città. Puoi mettere le bombe, ma ammazzi l'uomo, mica l'onestà. Dormono, dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, raccontano la vita che lì sopra ci cammina. Loro dormono, dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, raccontano la vita che lì sopra ci cammina. Dimmi dove sta Valerio, forse insieme a Carla. Dopo 30 anni finalmente potrà riabbracciarla. La verità è di piombo, non viene a galla, ma finché si ha forza in petto non si smette di cercarla. Dimmi dove è andato Stefano, lui dove sta? Ha fatto errori come tanti dentro a sta città. È scritta rosso sangue, l'infinita lista di chi ha perso tutto, non soltanto la sua libertà. Dimmi dove sta Eluana, dov'è adesso? Il corpo avvolto è la prigione col muro più spesso. E non c'è religione, scienza o legge che decide meglio di chi ti ama cosa è giusto per te stesso. Dimmi dove è andato Mario, che ce l'ha spiegato? Che la speranza qua è una trappola e resti incastrato. Solo gli stronzi muoiono, disse una volta. Gli altri vivono per sempre dentro i cuori di chi hanno lasciato. Lasciato, lasciato, lasciato. Dormono, dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, raccontano la vita che lì sopra ci cammina. Loro dormono, dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, raccontano la vita che lì sopra ci cammina. Musichette buffe! Buonasera a tutti. Buonasera, ciao Marchino. Ciao. Eccoci qua. Ciao Marco, buonasera, bentornato. Buonasera, buonasera anche a Samir. Anche settimana scorsa io bene, ciao. Cosa ci racconti oggi, Marco? No, allora, oggi al solito racconterò le mie allegrissime storie. No, nello specifico, diciamo, nella settimana scorsa è successa una cosa a Firenze, essendo insomma Radio Wombat innanzitutto a Firenze. Certo. Così mi è sembrato doveroso parlarne. Io accennerò giusto 5 minuti, sempre con il solito metodo stupido della mia rubrica. Ne parlo un po' e poi ci tiro fuori una canzoncina. Però in realtà è un tema, insomma, che è abbastanza, mi sta abbastanza a cuore, e che è abbastanza importante. Perché cosa è successo la mattina del 31 gennaio? La mattina del 31 gennaio scorso, che era martedì scorso, se non sbaglio, si sono presentati dentro San Salvi, fuori dall'edificio di Villa Panico, che è una storica occupazione anarchica fiorentina, ben 250 sbirri. Vorrei far presente che la mole, cioè 250, oltretutto in un contesto limitato, perché sei dentro San Salvi. Cioè due entrate, due uscite, esatto, no? Per rendersi conto, erano già tantissimi. Per Toselli erano 300, mm-hmm. 50 in più, cioè comunque sia un... vabbè, spero di aver reso un minimo l'idea. Si presentano appunto 250 poliziotti per effettuare uno sgombero preventivo di Villa Panico. In contemporanea partono le misure cautelari per... scusate se si sente poco. Partono le misure cautelari per 10 tra compagni e compagne, 3 arresti domiciliari e 7 tra obblighi di firma, divieti di dimora e obbligo, come si chiama, obbligo a tornare, obbligo per la notte, okay. A tornare in città per la notte, probabilmente per qualcuno che lavora fuori. Che non può in tutto questo, oltretutto, ci sono state delle foto, la scena è abbastanza agghiacciante perché Villa Panico è stata trovata già vuota e per fare scena, non lo so, non è ben chiaro, è stata fatta brillare una fioriera appena fuori, giusto per alimentare un po' questo clima. C'era il sospetto, insomma, ci fosse qualcosa, sì. So. Sì, è stata venduta così. Sicuramente se poi nella notizia viene fuori che è stata fatta brillare qualcosa perché era sospetta, il risultato è che chi legge l'articolo dirà: oddio, ma questi erano davvero dei criminali. C'hanno le bombe. Addio. Bene, e qua arriviamo alla cosa. Quali sono i reati contestati? Allora, in tutto questo l'indagine, nell'indagine ci sono 35 indagati, quindi un'indaginone. Allora, i reati contestati sono tra i vari: attacchi a sedi fasciste, resistenza a pubblico ufficiale, resistenza pluriaggravata, scritte sui muri, corteo non autorizzato e un volantinaggio non autorizzato. Oltretutto cose successe nella prima metà del 2016. Quindi scusa, non è un riferimento alla bomba d'inizio anno? No, non è assolutamente, ecco, in riferimento alla bomba d'inizio anno. Per quanto fosse già stata fatta una campagna mediatica, insomma, sul fatto che appunto pareva fossero questi fantomatici anarchici, insomma, si ritorna sempre al solito discorso. Nello specifico andiamo a vedere alcuni di questi reati contestati. Ad esempio, la resistenza pubblico ufficiale da cosa deriva? Deriva dal fatto che in Sant'Ambrogio è stato messo nella primavera, mi pare, scorsa, un banchetto contro la guerra e l'esercito, e nulla, le persone che avevano questo banchetto vengono accerchiate dalla Digos e tentano di portarli via. Ovviamente queste persone cosa fanno? Non è che si lasciano portare via come se nulla fosse, ma contestano un minimo. Di conseguenza, pam, resistenza pubblica ufficiale. E uno. Resistenza pluriaggravata. Resistenza pluriaggravata c'era stato un concerto su Lungarno dalla chiesa. Alla fine del concerto vengono richieste le generalità ai partecipanti. I partecipanti si rifiutano. La polizia inizia a pressare e da qua scatta parte una rissa. Bam, resistenza pluriaggravata. Il corteo non autorizzato, si parla del corteo del 25 aprile dell'anno scorso. Oltrarno. E solo per questo corteo ci sono stati 3 capi di imputazione per 29 degli indagati. Insomma, per far capire qual è stato il clima di questa indagine. Oltretutto, per 9 di queste persone, tra i capi di imputazione c'è associazione a delinquere. A questo punto cosa è successo? La stampa locale ha colto la palla al balzo per fare il solito giochetto. Quindi ha iniziato a fare da cassa di risonanza alle affermazioni del PM, che parlano di una compagine strutturata con una gerarchia ben definita. La cosa interessante... Gli anarchici. Esatto, essendo un'occupazione di anarchi, al di fuori del fatto che non era evidentemente vero, andava contro qualsiasi dei principi su cui si basa, insomma su cui... L'ideale anarchico. L'ideale anarchico, esatto. L'ideale è la lotta anarchica. Infatti da qui, su questa cosa qui, volevo leggere un breve estratto del comunicato dell'Assemblea Solidale con gli anarchici colpiti dalla repressione in seguito all'Operazione Panico, che è appunto questo che va a spiegare un attimo, approfondire un attimo questo discorso. Proverò a leggerlo cercando di rimanere vicino al microfono e nonostante la volta scorsa abbia dimostrato che non so leggere, ma va bene. Allora... Ciò che non siamo è una misera associazione gerarchizzata. Non siamo né servi che votano senza muovere un dito, né gregari che aspettano gli ordini dei capi o delle cape per agire. Ciò che non vogliamo è passare la nostra vita a lasciarci sfruttare e comandare. Per questo non piangiamo quando ai nostri nemici torna indietro un po' della loro violenza. Le lacrime le riserviamo a chi muore in cantiere, in caserma, in mezzo al mare, in carcere, alla frontiera. Non certo alle vetrine dei fascisti, ai referti ipocriti degli sbirri o ai muri di una città che l'UNESCO dichiara patrimonio dell'umanità, mentre è sempre più in mano ai soli affaristi e speculatori. Ciò che non vogliamo, infine, è che il nemico possa dividerci con la lingua di legno del codice penale. Non sappiamo se questi compagni e compagne abbiano commesso tutto ciò di cui li si accusa. Sappiamo solo da che parte della barricata lottano e tanto ci basta per stringerci attorno a loro, per farla finita con questo mondo, per aprirne forse di nuovi. Ma per questo le parole da sole non bastano. E nulla, in tutta questa situazione, secondo me le uniche 3 certezze a questo punto che ci rimangono sono... La prima è che Firenze ha perso l'ennesimo spazio liberato, dove davvero viene praticata un'alternativa. La seconda è che a questo punto la speculazione sull'area di San Salvi probabilmente sarà molto più facile. E la terza è che il clima di repressione e di intimidazione che stanno portando avanti non deve intimorire e non deve fermare in alcun modo la lotta. A questo punto riprendo uno degli striscioni che pertanto ha capeggiato su fuori da Villa Panico, che è: la repressione non fermerà auto-organizzazione e azione diretta, solidarietà agli arrestati. E per questo io dico solidarietà per Filo, Carlotta e Michele, solidarietà ai colpiti e alle colpite delle misure. Detto questo, lancerò una canzone che è... una canzone degli Ette Merda, semplicemente perché il primo concerto che ho visto degli Ette Merda era a Villa Panico, per essendo un gruppo che adoro e che in qualche modo ho scoperto anche grazie a Villa Panico, il mio omaggio sarà questo. cazzo in catta muffe! Dovremmo avere dei fucili per cose di questo tipo. Impastillo sbirillo. Impastillo sbirillo. Impastillo sbirillo. Impastillo sbirillo. Eccolo. Troppo forte. Piano, piano, piano, piano, piano, con piano, calma. Ciao Lillo, che sorpresa. È l'emozione della sorpresa. È l'energia, cioè, è arrivata all'improvviso di questo pomeriggio. Dunque, no, allora, il pastillo sbrillo è speciale, ha una puntata specialissima, e perché semplicemente, anziché spiegare il procedimento, noi degusteremo il risultato finale. Tirerò fuori dallo scrigno, che è qua accanto a me, se non so se siete degli attenti ascoltatori, vi ricorderete che l'ultima puntata di Impastillo Sbirillo era la ricetta delle frittelle di San Giuseppe, le frittelle di riso che io, per l'appunto, mentre ascoltavo Radio Wombat, ho fritto di corsa. E infatti, se potete sentirlo dall'odore, forse anche voi radioascoltatori, Lillo for President, totale. E quindi, insomma, è una degustazione. Dovrete, i nostri amici qui alla radio vi spiegheranno un po' che cosa è venuto fuori. Il sapore, dovranno, non so, un po' dirvi. E come funziona? Quanto siamo fortunati alla fine? Tantissimo. Eccolo! Fortunati. I pasti con sbiricco. Ecco qua. Le vere frittelle di riso. Di carnevale. Boni. Qui ci sono anche dei fuorisede che forse non hanno mai assaggiate, quindi si dà loro la precedenza. Allora, quindi, come voi mi piace per Caterina che è scappata e si perderà questa cosa. Come funziona Lillo? Come facciamo a dare un voto? No, ma il voto. Cioè, il non voto, un voto, no, una, cioè, votazione. Devi un po'. Cioè, chiudi gli occhi. Funziona che chiudi gli occhi e descrivi quello che senti. Lore, sta a Lore. Lore. La cosa più buona del mondo. Ciao, ragazzi. Buona. Buonissime. Ora guido. Vai, lo voglio assaggiare anch'io perché ancora non l'ho assaggiato. Sento veramente verità questa. Sono ancora caldo. Guarda, ho fatto. Le ho fritte. Il sapore della mia infanzia. Vero. Il mio commento è. Con questo puzza di zucchero. Ho anche risposto all'appello di Lore. A un certo punto io, appunto, stavo friggendo, lo sapevo, no? Guarda, stavo friggendo, lui diceva: ma magari è una merendina a questo punto. Come ci sarebbe? Detto, bah, perfetto, mamma, guarda. Mamma mia, ecco, come sono fortunato, come siamo fortunati. Messo il recipiente, passato in bicicletta e via. Poi mando un altro mentre si mangia. Senti, mentre mangiamo, c'è un'altra cosa che tu hai preparato per noi, sì, come tutti i lunedì. Sì, esattamente, no, avevo registrato il detto del giorno. E ve lo propongo registrato, e è stato un po' interpretato, ecco, da noi. Okay. Non è sicuramente, non è veritiero, cioè non rispecchia, come l'abbiamo spiegato noi, non rispecchia la vera origine di quel detto, però appunto, come sappiamo, i detti sono fatti un po' così a cazzo, e quindi possiamo interpretarli come ci quindi vuole, con questo vuole. con questa dolcezza e con con questa dolcezza e con la tua rubrica, che è il detto del giorno, andiamo verso la chiusura. Andiamo, quindi dopo chiusura, ci vediamo, salutiamo e poi bye bye. Bene. Buonissime. Ma fritelle. Eccoci qui per il nostro consueto detto del giorno della settimana. Ci abbiamo qua Lillo. Buonasera, buonasera, buonasera. Eccoci qua, il secondo detto di febbraio. Viva. Viva, viva. Intanto vi volevo ricordare che la volta scorsa abbiamo... vi ho illustrato il proverbio della candelora, e se ve lo ricordate bene era una questione che il tempo, insomma, se piove o se c'è il sole il 2 di febbraio dipende poi se l'inverno è finito oppure no. Il 2 febbraio pioveva di rotto, quindi l'inverno dovrebbe essere finito. Dall'inverno siamo fuori, potete stare tranquilli, potete essere gioiosi, giocare, andare fuori. Però c'è però, una controindicazione, sì, no? Vacci a spiegare il detto che avevi scelto adesso. Esatto. C'è una controindicazione di tutto ciò. Il detto di oggi recita così: se febbraio non febbreggia, marzo campeggia. Quindi... se febbraio è ghiaccio, fa un freddo boia, a marzo invece sarà più mite. E quindi si va al fiume. Si apre ufficialmente la stagione del campeggio, che per definizione il nostro campeggio è libero. Andiamo dove cazzo ci pare, quando cazzo ci pare e come cazzo ci pare. va bene? Giusto. Quindi voi tenete bene, controllate molto bene questo mese di febbraio, va bene, tendenzialmente l'ultimo mese d'inverno, poi marzo inizia un attimino a scaldarsi, speriamo che sia freddo, perché ragazzi a marzo poi tutti al campeggio, tutti fuori, tutti nei boschi, nei fiumi, via! A sguazzare, a fare frisbuffi, a fare tutto quello che volete. Non so se voi siete amanti del campeggio, noi, come potete intuire, viviamo per il campeggio libero, viviamo per restare nei boschi e nei fiumi, in mezzo ai sassi, in mezzo ai rospi. O anche in terrazza, va bene lo stesso. O anche in terrazza, quando è bene, proprio no. se proprio non troviamo alternative. Comunque, esatto. È questo, un febbraio rigido porta tendenzialmente a un marzo temperato, va bene, all'apertura della primavera e all'apertura del godimento assoluto di tutti i giovani, tutti. Quindi la candelora ce la butta ogni culo. Quindi si sceglie o la candelora o marzo o febbraio di accio. Va bene, quindi in uno dei due casi è sbagliato. In uno dei due casi è sbagliato, è sbagliato, sì. Però quest'anno potremo vedere quale dei due è più veritiero. Va bene, per l'anno prossimo ci siamo già tarati. Vai. Passo dalla Spep House. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Break it to me gently. Let me die. Make me feel that you still love me. If it's just for one more day. Break it to me gently, so my tears won't fall too fast. If you must go, then go slowly. Let me love you till the last. The love we shared for oh so long is such a big part of me. If you must take your love away, take it gradually. Oh, oh, break it to me gently. Give me time, or give me a little time to ease the pain. Love me just a little longer, 'cause I'll never, never love again. 'Cause I'll never love again. Bella, ci siamo. Bella, bellissima. Siamo qui, siamo alla fine. Il silenzio di sottofondo indica che c'è anche un silenzio dietro di noi praticamente, perché quindi tutto si sta dileguando. Abbiamo sentito una parola strana nel detto del frisbuffi. Frisbuffi, parola frisbuffi. Allora, vi diciamo che è uno sport estremo. Acquatico. Ma di cui vi parleremo nella prossima puntata. Esatto, non vi diciamo niente, vi lasciamo niente. Con questa. Ricordate, enorme. Tenete a mente frisbuffi, frisbuffi, frisbuffi, frisbuffare tutta la settimana. E la settimana prossima noi vi spieghiamo cosa dovete fare. Avrete fatto durante questa settimana. Dopo di noi, alle 21, la revancia. Ottimo. Rimanete sintonizzati comunque in generale, sempre. Sempre su Radio Wombat, perché ci sono tutte le settimane. Andate a vedere sul sito. Il palinsesto. Palinsesto, che poi sarà appunto aggiornato anche con le repliche. Con le quindi repliche, diventerà esatto. Tutto una bomba. Gino ci ha spiegato come sì? funziona. Ringraziamo tutti, è stata una puntata meravigliosa. Ci siamo tanto divertiti. Come sempre. E ci sentiamo lunedì prossimo. Vi ringraziamo come sempre. e al grido di Wombat. E ci sentiamo yeah. lunedì prossimo. Yeah. Fuoco alle polveri. Go Halle Paul Berry. Radio Wombat. Mi spiace, non stavo ascoltando.